l'odore del caffè, la metropolitana, le mezz'ore in coda al semaforo, quello che va piano appena scatta il giallo e lui passa e tu no, la mensa dove anche il riso in bianco dà problemi di gastrite, quei visi apparentemente normali con l'occhio che però tradisce qualche tic, i figli da accompagnare, da andare a prendere, poi il giorno dopo da riaccompagnare, da andare a prendere fino al venerdì, che poi il sabato hanno lo sport e li devi accompagnare, andare a prendere, che vorresti che andassero da soli ma poi ti senti in colpa. I figli che devono mangiare ma non hai tempo per cucinare, allora a pranzo gli dai sofficini e però poi ti senti in colpa perché avresti preferito cucinare qualcosa tu. I figli che devono mangiare anche a cena ma non hai tempo per cucinare, allora gli dai sofficini. Anche di sera i figli che devi portare dal medico perché a quel punto anche loro hanno la gastrite anche se hanno 10 anni. Il lavoro con gli obiettivi da raggiungere, che ogni mattina ti arriva sul telefono l'obiettivo del giorno stabilito dal capo, anche lui con quel tic all'occhio. Tutto per essere premiati nella festa aziendale di fine anno, dove ci si ubriaca per dimenticare tutto quello che si è dovuto sopportare. E poi la mattina dopo ricominciare con gli obiettivi, con l'alcol che esce dai pori della pelle e si mischia all'odore del caffè, delle sigarette. Mentre su Tinder cerchi l'anima gemella e dai il telefono alla prima che ti fa l'occhiolino, senza sapere che anche lei ha quel tic. Poi ti metti con lei stressati, tutte e due, e fate un figlio, anche lui stressato, che come prima parola nella vita non dice mamma, ma dice caffè. Il lockdown, che ha creato tanti problemi, però ad alcuni di noi, ha fatto prendere una pausa da tutto questo e ci ha fatto intravedere la nostra Paradise Island. Per ridere, per piangere, per correre sulla spiaggia, anche se qualche volta filmati dai droni, per darsi un po' più di tempo e fare l'amore con calma e non solo al sabato pomeriggio al ritorno dal centro commerciale, per accarezzare la propria donna e sentire il profumo della sua pelle, quello che non sentivi più da tempo perché il naso era pieno solo dell'odore del caffè. Forse Paradise Island non esiste, forse non riusciremo mai a salire su quel treno e come Al Pacino verremo freddati un attimo prima di salire, ma è bello pensare che ci sia e che un giorno ci si possa arrivare, ognuno a modo proprio, coi propri tempi, ma respirando. E vaffanculo alle tasse, alle bollette, al telefono di ultima generazione, al grande esodo, al grande rientro, alle pubblicità e alla finte lacrime in TV. Da soli, o meglio ancora, insieme a una persona con la quale condividere almeno una parte del viaggio. Placebo. Pillole agrodolci senza effetti collaterali. Allora, ascoltavo questa mattina, appunto 24 mattina, ascoltavo Simone Spezia che raccontava... Come fortunati, 24 mattina, come fortunati. Allora, ascoltavo 24 mattina, dove Simone Spezia raccontava di un'ordinanza della regione Abruzzo, secondo la quale per giocare a calcetto non si può recuperare la palla attraverso contrasti di gioco causa coronavirus. Deve essere probabilmente allora l'avversario che ti cede palla quando tu gentilmente gliela richiedi. Ecco, fino a qualche tempo fa si diceva che niente sarà mai più come prima, forse ci si riferiva al fatto che nel mondo nuovo, dopo il coronavirus, avremmo visto una serie di stupidaggini fino a poco tempo fa inimmaginabili. Forse si ipotizza un mondo educato, per legge, anche nello sport, niente tackle, scivolate, marcature asfissianti in area, ma un calcio educato dove si marcherà a zona nel vero senso della parola, cioè si sta in zona, ma senza avvicinarsi troppo, e dove però in cambio gli attaccanti non fanno mai tiri troppo potenti per non dispiacere e non far male al portiere. Si può segnare solo tirando piano e poi dopo, per scusarsi, al portiere si dà un fiore. Unico problema per questo tipo di calcio educato è che ovviamente alla fine non ci si può stringere la mano, perché la stretta di mano potrebbe trasmettere l'odiato virus, che è così grave, ma così grave, che al momento pazienti gravi non se ne trovano più. Però è vero che in un mondo educato anche un mal di gola fa dispiacere, quindi meglio evitare ogni possibile patologia, anche un semplice ma maleducato mal di gola. Regole educate, leggo, anche in discoteca, dove a quanto pare le nuove regole prevedono che si possa ballare, sì, ma tenendosi a debita distanza uno dall'altro, un paio di metri. Non più quelle calche maleducate dove dopo aver bevuto un paio di drink ci si strusciava uno sull'altro come preliminare per rapporti completi, ma